Crossover. Note senza confini. Un programma di e con Paolo Travagnin. Carissimi amici di Crossover Note Senza Confini, un succoso Aleger dal vostro Paolo Travagnin e benvenuti nella nuova proposizione di brani selezionatissimi ma senza barriere, senza pregiudizi che vi propongono e che mi arrivano direttamente da voi. Perciò vi invito a contattarci e vi do immediatamente anche il contatto per gli amanti del web. La mail giusta è music@vatiradio.va. Per gli amanti invece del telefono potete raggiungerci tradizionalmente con un telefono all'800 208 802. E partiamo immediatamente con le nostre proposte, che sono poi le vostre. Eccoci. Thank you.

Paolo Traonin ai microfoni di Crossover, note senza confini. Per gli assidui frequentatori del web, il contatto giusto è music@vatiradio.va, oppure potete contattarci al numero verde 800 208 802 per dar voce alla vostra arte. Crossover. L'unica speranza di libertà quando il cuore sfida la gravità. Tutto il mondo piccolo gli sembrò violato, l'ultimo cielo lassù ci sarà con lui, come lui, oltre lui solo il blu con le ali fragili della follia, non pensando che si ripeterà. Su, è sicuro che la cera non lo tradirà. Che c'è nei venti, comprese quei silenzi, fino a che sempre lassù, in me blu, l'anima diventa libera. Avete prodotto un CD, un videoclip? Avete scritto un libro o un'opera didattica? Siete protagonisti di un corto o siete filmmaker? Beh, contattate Crossover. Le strade, piene di vento, piene di gente, con le vetrine sempre più colorate, le luci pallide e il silenzio assente. Le strade, pieno di sole, pieno di gelo, con le stagioni che indifferenti segnano i muri, le facce e gli animi della gente che vive su queste strade, su questi sassi, su questi anni passati vigliacchi davanti alle porte con gli occhi bassi. E la gente che confusamente le riempie di vita e che cerca con passo morbido un antidoto a questa ferita. Tempo, tempo, passa il tempo. Tempo, tempo, passa il tempo. Strade, le strade, dove tutti ci incontriamo, dove tutti quanti andiamo, dove tutti torniamo. Le strade come un teatro dove recitiamo insieme a questo copione di nostra vita, come possiamo, come ci conviene. Le strade, pieno di questo carnevale, di questo show sempre buona la prima, come corsia di questo nostro ospedale. Le strade, dicevo, dove illustriamo con la nostra presenza al mondo intero il senso intimo della nostra esistenza. A tempo, tempo, passa il tempo. A tempo, tempo, passa il tempo. Le strade, le voci, tutta la gente che passa per ore, tutta la gente che è passata e se n'è andata senza fare rumore. Le luci, le voci, gli odori di tutta questa nostra essenza sono le strade che percorriamo metaforicamente la nostra esistenza. Le strade, piene di polvere, piene di ricordi, piene di volti passati da un pezzo, malinconie da quattro soldi. Le strade, portici freschi dove tutti passeggeremo scordando il sole d'estate, la pioggia d'inverno, il gelo e il sereno. A tempo, tempo, passa il tempo. A tempo, tempo, passa il tempo. A tempo, tempo, passa il tempo. A tempo, tempo, passa il tempo. Si affaccia nella via, guarda le nuvole che va. Le proposte musicali che state ascoltando sono solo alcune di quelle giunte in redazione. Per suggerimenti, commenti, giudizi vi aspetto a music@vatiradio.va oppure 06 69 88 3792 oppure al numero verde 800 208 802. Crossover ti dà voce. Anche per oggi abbiamo esaurito le nostre selezioni, crossover, note senza confini, Paolo Travagnina al microfono e Marco Di Battista alla console in regia vi salutano e vi ringraziano della vostra cortese attenzione. Vi ringraziamo e chiaramente aspettiamo il vostro materiale che potete così inviarci, come state facendo copiosamente, e di ciò vi ringrazio, visitando il sito www.icebergnews.it. Un appetitoso Aleger dal vostro Paolo Travagnina. Ciao! Avete ascoltato Crossover, note senza confini, un programma di e con Paolo Travagnin.